Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Buongiorno a tutti e bentornati a Fumetti Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va a parlare con uno dei maggiori fumettisti comici italiani. Parliamo di Claude, che è ereditato da Bombi, strisce quali struttruppe, intanto per fare un esempio, un autore che guarda anche se stesso con grande ironia, che abbiamo raggiunto con Morena Moretti per questa chiacchierata quasi seria. Dopo lo stacchetto musicale andiamo con la voce di Claude. Buongiorno Claude. Buongiorno, anche se non sono vestito bene fa lo stesso, no? Sono in pantofole. Ehi, oddio, adesso non lo so, l'immagine che vuoi dare di te, qual è? Pantofolaio. Pantofolaio. Allora, fumettista noto e molto prolifico, ma soprattutto hai iniziato, anche per motivi anagrafici, negli anni 70 a disegnare, vero? Professionalmente il 6 settembre 70. Una data precisissima. Mi ricordo precisamente perché io mi sono congedato il 4 settembre, il 5 sono andato da Bombi, che eravamo d'accordo, che l'avevo conosciuto un mese prima, a fargli vedere i miei lavori, e lui mi ha detto: bene, domani puoi venire se vuoi. Quindi era il 6. Quindi hai iniziato nel suo studio praticamente. Sì, nel suo studio, sì, professionalmente. Poi già disegnavo io fin da quando andavo all'elementare, quindi... Certo. E come si disegnava allora? Cioè, com'era lo studio, com'era anche lo studio di Bondi a questo punto, e come si disegnava? Cioè, tavola per tavola, con la matita prima? Si faceva tutto a mano allora, non c'era il computer, non c'erano tutte le cose tecniche di adesso, e quindi ognuno di noi aveva il proprio tavolo, che io quando sono andato lì c'era già, nello studio c'era già Silver, quello di Lupo Alberto, che era lì già da 6 mesi prima, quindi mi sono messo lì, mi diedero un tavolo anche me, e cominciai a disegnare, cioè, un personaggio che già faceva Silver, era un personaggio di Bombi che glielo stava continuando Silver, e poi lo affidarono a me, e a Silver gli diedero Cattivic, personaggio Cattivic, perché uno è cattivo, non è cattivo. È vero, però mi ricorda che comunque noi lo chiamavamo così. Invece tu hai avuto questo personaggio in affidamento e quindi tu facevi tutte queste tavole. E quanto tempo ci voleva? Lì poi anche come anche adesso dipende poi da quello che c'è, nella storia, perché se c'è una storia ambientata in tribuna, in uno stadio, così, o se c'è una storia ambientata nella nebbia di notte, uno da solo, è chiaro che fa molto prima quella della nebbia di notte da solo. Comunque lì mi ricordo che sia io che Silver facevamo un qualcosa come circa un centinaio di pagine al mese, cioè, sì. Quindi una cinquantina per uno, ecco, sì. Cioè, così che poi dopo Bombi le portava su a Milano, lui, e così, cioè, quindi firmate, perché Bombi ce le faceva firmare, diceva: così vi responsabilizzate, vi fate delle puttanate, sono affari vostri. Perché non è consueto che facciano firmare gli autori? No, infatti sono molte volte i collaboratori che fanno il lavoro o completamente o quasi completamente per il disegnatore capo, sì. Così, e poi firma il capo, chiamiamolo così. Non c'è mai una doppia firma, insomma, mentre lui... Difficilmente, ecco. A volte c'è scritto inchiostri di, così, con la collaborazione di, però non sempre, insomma. Invece lui da subito Bombi più Claude, Bombi più Silver, quello che era. Certo. Quindi... Poi partiva e andava a Milano. Lui andava, partiva, andava in Milano in treno, andava in treno allora lui. Erano ancora tempi che con si le girava. Tavole con sé. Sì, ma erano tavole che erano grandi, forse più o meno come una 4, no? Certo. Cioè, ma fotocopie, erano tavole, erano per cucciolo e tiramolla, che allora erano per una testata che andava per la maggiore, oltre a Topolino, delle edizioni Alpe, e così lui andava su, consegnava le tavole e poi, non, poi i testi non ce li scriveva Bonvi, ce li scriveva sempre uno di Modena che era anche lui un collaboratore di Bonvi, si chiamava Enzo Meschiari, però si firmava Emes, che era un autista di autobus e scriveva le sceneggiature nelle pause. Quando era al capolinea, dai, si metteva lì, scriveva la sceneggiatura, prolifico al massimo proprio, una cosa. Ma quindi le nuvolette, diciamo, quindi c'è una professione che è legata al fumetto, che è quello di, letterista, oltre a quello che sceneggia, ma anche quello che le scrive queste nuvolette. No, allora, un momento, c'è lo sceneggiatore che è quello, soggettista, il sceneggiatore soggettista è quello che scrive. La storia. Soggettista, il soggetto è, in poche parole, il riassunto della storia. Poi lo sceneggiatore è quello che la fa nei dettagli, proprio allora il personaggio tal dei tali dice due punti. Sì. Come un copione, esatto, un copione, poi descrivendo anche l'ambiente, i sentimenti del personaggio, se deve essere allegro, incavolato, roba del genere. E poi c'è il disegnatore che disegna, che deve lasciare lo spazio, se non lo fa lui già, per il letterista, cioè quello che fa, la persona che fa il lettering, cioè la scritta nelle nuvolette, ecco, che poi invece lì poi lo facevamo io Silver, cominciavamo dal foglio bianco, glielo consegnavamo già finito. Il lettering l'abbiamo sempre scritto noi, nelle nostre tavole c'erano, il lettering lo scrivevamo noi. Eccomi qua, mi chiamo Giumbolo, io sono felice sempre gongolo e rigongolo, quando mi muovo io ballonzolo, poi gongolo e rigongolo, la notte il dì. Mi chiamo Giumbolo, io sempre rido quando dondolo e ridondolo, ma se girondolo io giondolo e rigiondolo, poi gongolo e rigongolo, la notte il dì. E quando gongolo lolo divento il simbolo lolo di tutto quello lolo che gioia dà. E quando gongolo lolo divento il simbolo lolo di tutto quello lolo che gioia dà. Mi chiamo Giumbolo. Io son felice sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io ballonzolo, poi gongolo e rigongolo, la notte il dì. Quindi la partenza com'era? Diciamo Paul, Matita, no, squadratura. Ah, ecco, squadratura del foglio. Sì, la gabbia, diciamo, la gabbia, sì, delle cose. E poi c'era così, bisognava decidere se una vignetta, se non era già descritto nella sceneggiatura, se era una vignetta lunga, stretta, corta, alta. E poi lì tante volte poi non si seguivano le cose, perché poi tante volte lo sceneggiatore casomai aveva una visione in testa di una scena che si poteva risolvere o più semplicemente oppure in modo più complesso, quindi ti dava meno spazio o più spazio e noi poi eravamo liberissimi di sceglierci gli spazi che volevamo. L'importante è che se ci dava una sceneggiatura di 10 pagine, alla fine fossero 10 pagine, ecco, non è che poteva consegnare anche le 9 o 11. Nel tempo il lavoro è cambiato, quindi passiamo un po' più avanti, tipo anni 80, anni 90, come cambia e quando cambia? Mario, li cambia quando… Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che noi lì, io e Silvia abbiamo avuto questa grossa fortuna, che noi siamo stati a bottega pagati, cosa che invece molte volte uno va a bottega, andava perlomeno, ma come anche in tanti lavori, uno va a bottega e ci va gratuitamente perché ti insegnano il lavoro, le basi del lavoro. No, Bonvi ci ha fatto lavorare subito, forse perché avevamo già di nostro la possibilità di fare qualcosa, è chiaro che lui ci dava delle dritte così, però e poi ci pagava un tot a pagina e via, cioè, quindi noi siamo andati a scuola pagati, virgolette, anche se non molto, però pagati. Così, poi col tempo dopo è chiaro che abbiamo migliorato, abbiamo fatto, ognuno dopo ha preso la propria strada, anche così, così e via dicendo. Ma tu hai cominciato a lavorare utilizzando mezzi diversi, quindi col computer intendo, cioè quindi con dei programmi? Io ho cominciato che il computer non c'era, cioè se sì, poi sì. Nel tempo, io poi il computer l'ho cominciato, l'ho preso, parlo forse 2002-2001, cioè neanche tanto in là, hai capito, sì, c'era sì, già. Sì. Che è mio fratello che aveva cambiato il computer, quindi quello che lui aveva mi disse: guarda, io questo lo metto in, se lo vendo non uh-huh. Quindi ha dismesso e preso. Se, cioè, se lo vendo mi chiedono cosa gli do, perché non lo vuole. E quindi io lo devo tenere in cantina, buttarlo via mi fa fatica. Lo vuoi? Cioè, io se lo vuoi. E devo dirti che i primi 10 giorni mi fastidiva sto bagaglio qua, cioè, mi metteva a posto, così. Poi pian pianino comincia a sciapinare così. E poi dopo, poi nel 2000, mi ricordo, nel 2003 ne comprai uno che era, che ce l'ho ancora, fra l'altro funziona ancora. Ne ho un altro più nuovo, più potente. Che lo usi per lavoro? Che li uso tutti e due per lavoro, cioè a parte con dei programmi. A parte le mail, a parte le internet, che può sempre servire, no? Così che serve per documentazione, così. Ma però lo uso soprattutto con Photoshop, come usiamo molti di noi, usiamo Photoshop, anche se è un programma di ritocco fotografico, lo usiamo soprattutto per colorare e anche per cosare, anche per ovviamente, ci sono quelli che disegnano addirittura adesso in digitale, con la tavoletta, io adesso ho anche la tavoletta, ma disegno ancora su carta, col computer, allora mi piace molto lavorare sulla carta, anche a colori, se ho tempo e se pagano bene, lavoro sulla carta. Se ho tempo e pagano poco, lavoro sul computer. Il computer che si fa prima. E se non ho tempo e pagano poco, o pagano anche bene. Se ho poco tempo e anche se pagano bene, però bisogna correre, quindi col computer. E devo dire che è un ottimo strumento. Poi ci sentiamo dire noi tante volte, ma adesso si fa tutto col computer. Sì, col piffero. Thank you. dopo questa prima parte la chiacchierata conclude, la seconda la sentiremo la settimana prossima. Invece apriamo un po' il programma dell'accesso, ovvero sia facciamo un po' il riepilogo di cose decisamente importanti quando si parla di memoria, linguaggio, comunicazione, ovvero l'evoluzione della lingua italiana nel nostro paese, nel tempo, nei decenni. Di questa chiacchierata, questa scheda colta da internet, vediamo come si insedia, tra virgolette, lingua italiana nel nostro stivale. A partire dall'Unità d'Italia, i dati relativi all'analfabetismo sono raccolti in censimenti con cadenza decennale. Il primo censimento del 1861 mostra che circa l'80% della popolazione femminile era completamente analfabeta, un po' meglio quella maschile in cui il dato scendeva al 60% circa. Il dato era ricavato dal numero di certificati di matrimonio firmati con la sola X. L'analfabetismo strumentale, cioè il non saper leggere né scrivere, inizia a calare con la scolarizzazione, i cui momenti fondamentali sono l'introduzione dell'obbligo scolastico nel 1859 con la legge Casati e la prima riforma organica della scuola promossa da Giovanni Gentile, con la quale l'obbligo sale a 14 anni. Nell'Italia repubblicana l'obbligo scolastico gratuito di 8 anni entra nella Costituzione con l'articolo 34. Infine nel 63 la riforma della scuola media unificata. L'analfabetismo funzionale è invece l'incapacità di un individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana. Cioè una persona che sa scrivere il proprio nome e che magari aggiorna lo status su Facebook, ma che non è capace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere con testi scritti per intervenire attivamente nella società, raggiungere i propri obiettivi e sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. Un analfabeta funzionale apparentemente non deve chiedere aiuto a nessuno, come succedeva una volta con lo scrivano che leggeva e scriveva a pagamento per chi non sapeva farlo. Ma anche se apparentemente autonomo, un analfabeta funzionale non capisce i termini di una polizza assicurativa o il senso di un articolo pubblicato su un quotidiano, non è capace di riassumere o di appassionarsi a un testo scritto, né di interpretare un grafico. Non è capace quindi di leggere e comprendere la società complessa nella quale si trova a vivere. Secondo i dati di Tullio De Mauro, il 70% degli italiani si informa, vota e lavora seguendo soltanto una capacità di analisi elementare. Una capacità di analisi quindi che non solo ignora la complessità, ma che anche davanti a un evento complesso come la crisi economica, le guerre, la politica nazionale o internazionale, lo spread, è capace di trarre solo una comprensione basilare. Un analfabeta funzionale quindi traduce il mondo paragonandolo esclusivamente alle sue esperienze dirette, e non è capace di costruire un'analisi che tenga conto anche delle conseguenze indirette, collettive e a lungo termine, lontane per spazio o per tempo. Così la crisi economica è soltanto una diminuzione del suo potere d'acquisto, la guerra in Ucraina è un problema solo se aumenta il prezzo del gas, il taglio delle tasse è buona cosa anche se comporta il taglio dei posti letto all'ospedale. Nel 2014 è stata completata la terza indagine comparativa OCSE sulle competenze degli adulti, che ha esaminato 30 paesi tra cui il nostro. Ne risulta che il 70% degli italiani si colloca nel livello minimo di analfabetismo strumentale totale e nel secondo livello, quasi minimo, insufficiente alla comprensione e scrittura di un breve testo. Soltanto un po' meno di un terzo della popolazione possiede quindi quei livelli di comprensione della scrittura e del calcolo sufficienti per orientarsi nella vita di una società moderna. Ma di questi solo il 10% padroneggia anche lessici tecnici o scientifici o termini di altre lingue usati nell'informazione quotidiana, quali spread, PIL, inflazione, quorum, par condicio e via dicendo. In sintesi, di fronte alla frase «il gatto miagola perché vuole il latte», il 5% non riesce a capirla, il 33% si ferma a decifrare «il gatto miagola» e solo il 29% ne comprende con facilità il nesso di causalità. Anche dopo aver raggiunto buoni livelli di literacy e numeracy, le popolazioni adulte sono esposte al regresso a bassi livelli di alfabetizzazione, a causa di stili di vita che allontanano dalla pratica e dall'interesse per la lettura e dalla comprensione di cifre, tabelle e percentuali. Tra queste, i NEET, le persone not in education, employment or training, cioè quelle che non si trovano in formazione scolastica, condizione lavorativa o di formazione professionale, sono la categoria più a rischio di analfabetismo funzionale o di ritorno. Secondo le ultime rilevazioni Istat, in Italia sono attualmente quasi 4 milioni. I problemi sociali legati ad analfabetismo funzionale e di ritorno sono molti. Gli economisti attribuiscono alla crisi culturale che si approfondisce nel nostro paese la stagnazione economica degli ultimi 30 anni. Ci sono poi i problemi politici, perché la percentuale di italiani che ha una comprensione dei discorsi pubblici o che capisca come funzioni la politica è certamente inferiore al 30%. Manca quindi alla democrazia il controllo delle decisioni, la valutazione e la possibilità di rinnovarsi. Se te ne stai così muta su una sedia ed aspetti che sia io ad avere per te un perché, oh no, parla tu. Ora piangi, cosa fai? Non chiedere scusa, tu non hai colpa. È stato solo che dove sei c'è un posto per te, non per me. Oh no, scusa tu. Parla tu. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.